Ad alta voce, Paolo Piero Bon legge Il fondo della bottiglia di Georges Simenon, traduzione di Francesca Scala. Nel buio, Lil teneva il braccio di Donald e lo faceva in un modo tutto speciale, con un atteggiamento materno, protettivo, sicché nessuno poteva scandalizzarsi o sorridere maliziosamente. Non erano stati abbastanza a guardare l'acqua scorrere? PM aveva mal di testa. Non vedeva l'ora di andarsene a letto dopo aver bevuto un ultimo whisky. Aveva ancora una cosa da fare, ma in quel momento non sapeva cosa. Se lo sarebbe ricordato prima o poi. Tutte quelle sagome nell'oscurità striata dalla luce bianca dei fari. Se lo ha fatto un indiano, può farlo anche un bianco. Fin lì PM era ancora calmo, tant'è che la sua reazione nel sentire Donald vantarsi in quel modo con Lil Noland era stata una semplice alzata di spalle. Ragazzi, che ne direste di rientrare? Perché non tornate tutti da me? Oggi voi siete senza domestici, mentre io ho la fortuna di avere Jenkins. E lui avrebbe scommesso qualsiasi cosa che, mentre diceva così, Lil stava stringendo leggermente il braccio di Donald. PM si era opposto? Probabile. Ad ogni modo, si ritrovò per puro caso in macchina con Nora. C'era solo un mezzo miglio da percorrere. Procedevano in fila. «Quando ha iniziato a bere, ho avuto paura», disse Nora. «Per fortuna si comporta bene. Lil lo tiene d'occhio». «Tu lo chiami tenere d'occhio, quello?» sghignazzò PM. «Non essere cattivo. A chi ha telefonato?» «Non ne ho idea». «Come siete misteriosi voi due. Sono sicura che non mi hai detto tutto». «Io?» Coraggio. Erano di nuovo a casa dei Noland, dove ciascuno recuperava il proprio angolino, il proprio posacenere ancora pieno, il proprio bicchiere vuoto e quasi quasi anche il tepore del proprio sedere nella poltrona. Quante volte era già capitato lì o in un'altra casa della valle? Non avevano niente da dirsi, niente da fare insieme, eppure una sorta di invincibile inerzia impediva loro di separarsi. Jenkins, per niente stupito, stava già cominciando a preparare i cocktail. Erano stati senz'altro quelli a dare il colpo di grazia a PM. I cocktail, Martini o Manhattan, sul barbon del pomeriggio. Quasi subito dopo c'era un vuoto. Rivedeva delle persone che si muovevano freneticamente. Risentiva nelle narici un odore di zuppa di piselli. Dovevano aver aperto delle scatolette e riscaldato la zuppa. E una scodella era caduta per terra. L'aveva rovesciata lui? Non ricordava di averne mangiata. Era gonfio di rabbia ed era da quel momento in poi che la faccenda diventava più difficile. Non era geloso del fratello. Non c'era motivo di esserlo, eppure c'era stata quella telefonata patetica e PM aveva ancora nella mente l'immagine di Mildred e dei tre figli intorno all'apparecchio nel corridoio della pensione. Non era neanche per via di Lil che era così arrabbiato. Non era innamorato di lei. Se un giorno ci aveva provato era soltanto perché aveva bevuto. La stimava. Nutriva per lei un sentimento di amicizia. Era furibondo e nessuno avrebbe capito il perché. Neppure lui lo capiva. Ma in fin dei conti sentiva di avere le sue buone ragioni. Le cose non stavano andando come sarebbero dovute andare. Donald non si comportava come avrebbe dovuto comportarsi, e neanche gli altri. Chi dei due aveva lavorato per tutta la vita e aveva avuto successo a forza di tenacia e coraggio, lui o Donald? Forse, partendo da lì, si poteva arrivare a una spiegazione. E tuttavia, poche ore prima, mentre erano soli al ranch, Donald gli aveva cinicamente detto: «Se tu commettessi una scorrettezza, cosa pensi che Nora...» In tutta quella storia c'era un'ingiustizia colossale. Lil non era l'unica a coprire Donald di attenzioni. persino Pemberton gli faceva in qualche modo la corte, sia pure solo nella speranza di attirarlo al tavolo da poker. A un certo punto PM si accorse che Donald avrebbe accettato, che era lì lì per accettare, e allora intervenne: no, non deve giocare. E Donald, al colmo della stizza: hai paura che vinca tutti i loro soldi? Di la verità, ti manderebbe in bestia, eh? Lil l'aveva trascinato via. Ora sembrava presagire chissà quale catastrofe. Giocava a fare la mamma con Donald, lo imboccava e tutti approvavano quel comportamento perché appunto sembrava un gioco. Un altro vuoto. Per quanto cercasse, da lì in poi c'erano solo vuoti. Tra un po' Nora li avrebbe colmati tutti, probabilmente, e sarebbe stato un vero strazio. Gli veniva in mente la parola cane, e non era un caso. A partire da un certo momento, infatti, si erano comportati come due cani ringhiosi che si provocavano a vicenda. Chissà se gli altri se ne erano accorti o no, e se avevano dato tutta la colpa a PM. Gli ospiti andavano da una stanza all'altra, entravano nelle camere da letto per arrivare ai bagni. C'erano zone d'ombra e di luce. C'erano bicchieri ovunque, anche nel patio. A volte, al buio, capitava di urtare contro qualcuno che magari stava vomitando senza neppure riconoscerlo. Di tanto in tanto gli sguardi dei due uomini si incrociavano e in quello di Donald c'era sempre la stessa espressione di sfida venata di disprezzo. Che mai gli dava il diritto di disprezzare PM? A guardarlo si sarebbe detto che fosse lui il re della serata e che li stesse prendendo tutti in giro, in particolare le donne, che li stesse menando per il naso, ubriaco, disinvolto e sarcastico. Di sicuro PM non era stato da solo per tutto quel tempo. Doveva aver parlato con qualcuno, doveva essersi unito più o meno a lungo a qualche gruppetto, vuotando un bicchiere dietro l'altro, per poi rimettersi però sempre sulle tracce del fratello, e magari già gli prudevano le mani. Chissà che non prudessero anche a Donald. Non pensi che faremmo meglio a tornare a casa? Era Nora. Capiva benissimo quando era sbronzo, ma sapeva altrettanto bene che era inutile insistere. Del resto, quella sera, lui e il fratello erano come due forze della natura. Avevano una vecchia questione di famiglia da regolare, che risaliva forse ad Appleton, attraverso Fairfield, nell'Iowa, anzi ancora più in là. Era un conflitto che andava ben oltre loro due, un conflitto biblico. Ad ogni modo, quell'espressione doveva averla pronunciata perché l'aveva pensata troppo intensamente e perché adesso stava riaffiorando dal fondo caotico della memoria. Un conflitto biblico. Caino e Abele. Esaù e Giacobbe. Ormai non poteva più fermarsi. Nessuno dei due poteva più fermarsi. Ma come sarebbe deflagrato quel conflitto? Ecco quello che adesso non riusciva a ricostruire. Sapeva che era successo per un motivo stupido, assurdo. Tutto era stato distorto. Il famoso conflitto biblico era finito in modo indegno. Tutti si erano sbagliati di grosso e i suoi migliori amici dovevano essere disgustati. Come fargli capire che quanto era accaduto tra loro era più grande di lui? Era un dramma eterno? E non era iniziato neppure con Donald. Doveva farsi tornare in mente quello che aveva detto di preciso. Può anche darsi che nella vita ci siano situazioni in cui siamo inesorabilmente indotti a fare il contrario di ciò che vorremmo. Pensava a Mildred Dodson, e invece era Lil che lo esasperava. Odiava suo fratello, e invece era con lei che se la prendeva. Non fu lui a scegliere il momento. Accadde quando meno se l'aspettava e quando, per giunta, aveva un bicchiere pieno in mano. Li stava tenendo d'occhio. Li trovò insieme in veranda, dove pensava che fossero soli. Lil, con quell'aria falsamente materna, non stava accarezzando il braccio di Donald, bensì la sua mano. Allora, con sua somma sorpresa, si sentì dire: «Ma non vi vergognate voi due? Non si vergogna, Lil? Se suo marito... Perché le cose prendessero la piega che avevano preso, c'era voluto un numero incalcolabile di circostanze fortuite. C'era voluto anche un altro equivoco. Larry Noland, che di solito non era affatto geloso, aveva alzato il gomito e come PM guardava a vista la moglie. A rigor di logica, avrebbe dovuto prendersela con Donald. Ora, quando PM aveva parlato, Larry era in un angolo della veranda e sta di fatto che, contro ogni aspettativa, fu su PM che si avventò. Era una persona mite, capace però di reazioni violente. Senza nessun preavviso, senza dire una parola, sferrò un pugno in faccia a PM. Il bicchiere saltò letteralmente per aria. Si rovesciò sull'abito della signora Noland, poi si frantumò al suolo. Senza rendersi conto di ciò che faceva, reagendo istintivamente al dolore, alla mascella, PM colpì di rimando. Non una, ma due, tre, forse anche più volte, ed era prevedibile che avrebbe continuato ad accanirsi così sul suo avversario, che pure era finito a terra. C'era già qualcuno intorno a loro in quel momento? Lil aveva cercato di fermare Donald? Questi gli stava venendo incontro a pugni chiusi e PM lo fronteggiava con una sensazione simile al sollievo. Sentì un colpo all'occhio sinistro e da quell'istante in poi fu costretto a tenerlo chiuso. Ma i pugni che tirava non andavano tutti a vuoto. La voce di Nora non gli concedeva un attimo di tregua. «PM, calmati, smettila!» Dopo un primo contatto erano arretrati entrambi per riprendere slancio e nello sguardo di Donald c'era sempre quel lampo di feroce ironia. «Ricordati quello che ti ho detto», scandiva a denti stretti. «Vieni, vieni qui che ti spacco quella faccia di merda!» Forse non erano state proprio quelle le parole esatte, ma l'espressione «faccia di merda» l'aveva usata di sicuro. Nora cercava di calmare il marito. Probabilmente, se PM non avesse raccontato tutte quelle storie sulla pazzia di Donald, li avrebbero lasciati liberi di regolare i loro conti. E invece li separarono. Quello era tradizionalmente il ruolo di Pemberton e lui lo ricopriva in modo semplice e dignitoso. «Ragazzi, siamo ospiti dei nostri amici Noland. Se avete qualche questione in sospeso da risolvere, sarebbe più civile che andaste a farlo fuori». PM si accorse di avere del sangue sulla mano. Lo stavano trascinando via. Gli stavano parlando in tanti, tutti quanti insieme. Era consapevole di aver detto ripetutamente «Fatelo venire qui fuori! Sì, fatelo venire qui! Pemberton ha ragione, deve venire qui!» Ovviamente li stavano imbrogliando, come si fa con i bambini. Portavano fuori lui dalla parte del prato e nel frattempo conducevano Donald dalla parte opposta, forse nel patio. PM si era ritrovato in macchina, ma non al volante, dove al suo posto sedeva Nora. «Vuole che venga con lei?» doveva essere la voce di Smiley. «No, grazie, me la cavo da sola, ci scusi». Si girava e rigirava sul sedile, ancora tutto eccitato dalla lotta. «Se la svigna, eh? Ha paura, eh?» Qualcuno si era assicurato che dalla sua parte la portiera fosse chiusa. Un altro vuoto, un buio profondo schiarito da qualche lampo di luce. Per esempio, era sicuro di aver bevuto ancora. Forse per quieto vivere, Nora l'aveva lasciato fare. Era il modo migliore, lasciare che andasse avanti fino a stordirsi e poi metterlo a letto. Dov'era Donald? Per chi parteggiavano i loro amici? Era rimasto dai Noland? Il peggio era che PM non avrebbe mai più avuto il coraggio di presentarsi a casa loro. Doveva assolutamente sapere cos'era successo. Rivedeva il soggiorno con una sola lampada accesa e la sagoma di Nora, le sue gambe, le sue cosce nude. Sicuramente era ubriaca anche lei. Tutti quanti lo erano. Ma c'era un'altra cosa. Una cosa che continuava a sfuggirgli e che forse era la più grave. Doveva a qualsiasi costo aprire gli occhi e alzarsi dal letto. L'occhio sinistro era sempre chiuso. gli sembrava di avere la testa piena di un liquido che sciabordava da una parte all'altra del cranio a ogni minimo movimento. Nonostante tutto, riuscì a raggiungere il bagno. Si tenne stretto al lavandino per guardarsi allo specchio. La palpebra sinistra era blu scuro e gonfia. Il labbro inferiore tumefatto e sul mento c'erano tracce di sangue. Frugò nell'armadietto dei medicinali, trovò il flacone di bicarbonato al quale era ricorso tante volte e ne lasciò cadere due compresse in un bicchiere d'acqua che si riempì subito di bollicine. Si sentiva davvero male. Aveva voglia di chiedere aiuto. A trattenerlo era la vergogna e anche la paura di venire a conoscere verità ancor più spiacevoli di quelle che temeva. C'era il sole, un sole più denso del solito, di un giallo più carico per via della pioggia, ma già si udivano, dalla parte di Nogales, i brontolii dei tuoni. Succedeva sempre così. Ad uno o due temporali forti faceva seguito un momento di calma. La mattina si poteva pensare che fosse tutto finito. La vegetazione appena spuntata era rigogliosa. Gli uccelli cantavano e il cielo era sgombro, finché nuvole bianche cominciavano a oltrepassare le vette delle montagne, viravano al grigio chiaro, poi quasi al nero, e già alle 2 o 3 del pomeriggio, proprio quando sembrava che il livello del fiume si stesse abbassando, scoppiava un altro temporale. A volte, tra una fase e l'altra, c'era il tempo di attraversare, a piedi o a cavallo, con l'acqua fino alla pancia e con il rischio di fare un passo falso ed essere trascinati via dalla corrente. Doveva tornare a letto. Barcollava. Aveva paura di svenire. Per fortuna la porta comunicante si aprì. Nora aveva la pelle del viso lucida, gli occhi pesti, i capelli arruffati. Anche lei aveva dormito nuda. Si era svegliata sentendogli aprire il rubinetto e si era infilata solo un accappatoio azzurro sul corpo da ragazzo. «Hai bisogno di qualcosa?» «Non lo so, non mi sento bene. Fa vedere?» Osservando la faccia, non sorrise, ma neppure si impietosì. «Faresti meglio tornartene a letto. Senti, Nora, che c'è? Ti chiedo scusa, non so cosa sia successo esattamente, ma... chissà se Mildred invece si sarebbe preoccupata. Forse Nora non ce l'aveva con lui. Ci aveva fatto l'abitudine, ma neppure si inteneriva. Aspetta, ti porto del ghiaccio. Vide i suoi abiti per terra, ai piedi del letto. Sei stata tu a spogliarmi? Sì, non è stato facile. Volevi uscire di nuovo. Continuavi a ripetere che era questione di vita o di morte. Cosa? Che cosa era questione di vita o di morte? Ritrovarlo. Mettiti giù. Non lo chiamavi Eric, ma Donald. Perché? Non lo so. Ammettilo, mi hai raccontato un sacco di balle. Era il momento di darle delle spiegazioni o di tirar fuori una nuova bugia. Ti prego, Nora, va a prendermi la borsa del ghiaccio. Lei ci andò a piedi nudi. Nessuno aveva fatto le pulizie. Era sempre sconfortante dover restare senza domestica per più di un giorno. Sembrava che la casa si lasciasse andare, precipitando in un disordine tutt'altro che poetico. «Ho parlato molto?» chiese quando ebbe la borsa del ghiaccio sulla fronte. Più che marito e moglie erano amici. Amanti, poi, non lo erano mai stati. Come amica Nora era perfetta e aveva il gran pregio di mantenere sempre la calma. Continuavi a parlare di catastrofe. Era un'idea fissa. Aspetta, hai detto: non sanno che sono l'unico a poter evitare una catastrofe. Per tutta la vita ho fatto il possibile per cercare di evitare una catastrofe ed ecco come vengo ricompensato. PM arrossì, riconoscendo in quelle parole l'enfasi dell'ubriachezza. Ogni volta che beveva troppo si convinceva di essere un infelice, un incompreso. Aveva la sensazione di sacrificarsi per gli altri senza ricevere niente in cambio. Ho cercato di impedirti di telefonare. Ho telefonato. Ho dovuto lasciartelo fare anche perché non sapevo se in quello che raccontavi c'era qualcosa di vero. Ho telefonato da casa dei Noland. Da qui, quando sei rientrato, sembravi più calmo. Per un attimo persino ho creduto che avessi recuperato la lucidità. Mi hai chiesto da bere. Sulle prime ti ho detto di no. Hai insistito. Ripetevi, Nora, ti assicuro che è assolutamente necessario. Devo prendere provvedimenti importanti. È una questione di vita o di morte. È vero, sono ubriaco, ma so quello che faccio. Non aveva più il coraggio di guardarla in faccia. Da un pacchetto che era sul tavolo, Nora aveva sfilato una sigaretta e se la stava accendendo, mentre si sedeva nell'unica poltrona della stanza, accavallando le gambe. Quando si azzardò a lanciarle un'occhiata furtiva, capì dalla smorfia che fece nel dare il primo tiro che anche lei accusava i postumi della sbronza. «Aspetta, parlavi di un dovere sacro e dicevi che un giorno avrei capito anch'io. Alla fine ho pensato che contrariarti sarebbe stato ancora peggio e ti ho passato l'apparecchio. A chi ho telefonato?» Se lo ricordò nel preciso istante in cui Nora glielo diceva. A Reeves. Era suo socio a Nogales, il vecchio avvocato con cui lavorava e che era stato eletto diverse volte giudice della contea. Che ora era? Non lo so di preciso, comunque dopo mezzanotte. Reeves era un ometto freddo, fin troppo metodico, che trasformava ogni banale abitudine in un rito inviolabile. «Sono stata io a chiamarlo. Non rispondeva nessuno. Ho dovuto chiedere all'operatrice di lasciar squillare il telefono per un buon quarto d'ora. Alla fine Reeves mi ha detto in tono secco che la sua camera da letto è al primo piano e il telefono al pian terreno e che lo avevo costretto a scendere a piedi nudi facendogli correre il rischio di pestare uno scorpione o un ragno velenoso. Reeves aveva una paura folle di tutti gli animali. L'ho pregato di versare dei soldi per mio conto, vero? Dio, come gli faceva male la testa e come aumentava il suo senso di nausea ad ogni nuova scoperta. Avrebbe mai avuto il coraggio di ripresentarsi di fronte a Reeves? Hai detto anche a lui che si trattava di una questione di vita o di morte. Poi hai aggiunto che era assolutamente necessario che stamattina, il prima possibile, e su questo concetto hai insistito molto, venisse consegnata una certa somma nelle mani di non so che signora, a Nogales, nel Sonora. La signora Espinosa? Può darsi. Era comunque un nome spagnolo. Gli hai dato un indirizzo. E ho detto quanto? Cambiavi l'importo in continuazione. Presumo che Reeves ti abbia fatto delle obiezioni, ma tu insistevi. Forse mi diceva che la banca non apre prima delle 9. È probabile. Gli hai specificato che non doveva essere un assegno, ma dei contanti. Stavi perdendo la pazienza. All'inizio hai parlato di $200, poi di 500. Alla fine hai gridato nell'apparecchio: $1,000! Mi hai sentito, Reeves? Ho detto $1,000! E può chiedere a Nora se sono o non sono in me. Inutile protestare. La questione riguarda me soltanto. Lei non c'entra. Ho detto $1,000. Dopo hai parlato con Reeves? Sì, mi hai passato la cornetta amareggiato dicendo: crede che sia ubriaco, rassicuralo, per favore. E tu? L'hai rassicurato? Gli ho detto: faccia quello che le chiede, è meglio. E lui? Ha promesso? Continuava a brontolare perché era scalzo e non sapeva dove trovare $1,000 in contanti prima delle 9 del mattino. PM sentì che era arrivato il momento più difficile. Lo capì dal silenzio concentrato di Nora, dai due lunghi tiri che diede la sigaretta. Dimmi, PM, chi è? La donna? No, lui. Senti, Nora, non sto bene. Ti giuro che ho seri motivi per essere preoccupato. Dov'è? Non lo so. Appena ho potuto ti ho portato via. Sei stata fantastica. Ma non è finita qui. Devo assolutamente sapere dov'è. Forse è da Lille. Ti dispiacerebbe chiamare. Che ora è? Le 11:30. Telefona. Dopo quello che è successo. Va bene. Magari sono fortunata, mi risponde Jenkins e mi dà qualche informazione. In effetti fu Jenkins a sollevare il ricevitore. Parlava a mezza voce, come se non volesse svegliare i padroni. Mi dica, Jenkins, l'amico con cui eravamo ieri... Sì, esatto. È rimasto lì da voi? Come? Ne è sicuro? Non se n'è andato con i Pemberton o con i Cady? Ah, dormono, sì, capisco. Non la disturbi, richiamerò io. La ringrazio, Jenkins. Sì, sta bene, benissimo. PM la guardava ansioso. No, non è dai Noland. Sembra che ci sia stata un'altra scenata dopo che ce ne siamo andati. Cercavano di metterlo a letto in una delle stanze degli ospiti. Lui si dimenava. A un certo punto è riuscito a liberarsi. Ha gridato: siete un branco di stronzi e non ho nessun bisogno di voi per raggiungere Mildred. Jenkins non ha pronunciato quella parola, ma io l'ho intuita. Erano nel patio. Il tuo amico si è messo a correre al buio. C'è un prato lì fuori, cinto da filo spinato. Ci stava correndo dritto contro, ma all'ultimo, secondo me, lo ha visto e lo ha scavalcato. In quella direzione le macchine non potevano seguirlo, allora c'è stato un fuggi-fuggi generale e i Noland sono rimasti soli. Non è che telefoneresti a Pemberton. Di rado Nora si era mostrata tanto arrendevole. Forse sperava che in cambio lui avrebbe finito per soddisfare la sua curiosità. Pemberton era già in piedi, ripulito e bardato, dalla testa ai piedi come un cavallo lipizzano. La conversazione durò poco. È stato piuttosto secco, disse poi Nora. Hanno percorso il perimetro del prato con l'auto, non hanno visto nessuno. In quel prato c'è una ventina di giumente con i loro puledri ed erano spaventate. Non ha detto altro. Gli ho chiesto che fine aveva fatto, secondo lui, il tuo amico. Mi ha risposto: esaltato com'era, avrà sicuramente cercato di attraversare il fiume. PM non si era mai sentito tanto male. Saresti così gentile da telefonare ai Cady, agli Smiley e anche ai Pope? Stamattina sono tutti piuttosto scorbutici, ma va bene. Fece le varie chiamate. Gli Smiley stavano ancora dormendo e lei si scusò per averli svegliati. Non ne sapevano niente. Cady era già uscito a cavallo alla volta della sua piantagione di cotone, dove temeva che ci fossero stati danni, e la signora Cady non ne aveva idea. Chiedile se il loro aereo è ancora lì. Non sapeva se Donald fosse in grado di pilotarlo. Avevano parlato dell'aereo dei Cady il giorno prima. Lo vede dalla finestra. Un attimo, trattienilo al telefono. Sarebbe meglio che non perdessero d'occhio l'aereo o che ne smontassero un pezzo, a caso. Credi davvero che possa dirle una cosa del genere? Hai ragione. Restavano solo i Pope. La chiamata durò un'eternità. Evidentemente aveva risposto la signora Pope, che sfruttava l'occasione per commentare tutto quello che era successo il giorno prima. Nora scalpitava per l'impazienza. I Pope abitavano nell'ultimo ranch della valle in direzione di Nogales. Lì intorno il Santa Cruz descriveva un'ansa che, congiungendosi alle montagne, chiudeva in qualche modo la regione. In linea d'aria stavano a non più di 5 miglia dal confine. La signora Pope non la smetteva più. Nora fece in tempo ad accendersi un'altra sigaretta e a fumarla quasi tutta. Vecchia arpia, sospirò riagganciando. Che cosa ti ha detto? Ovviamente ha cercato di carpire informazioni. Ha fatto di tutto per mettermi in difficoltà. Alla fine mi ha detto che, stamattina presto, gli animali hanno preso a galoppare intorno a casa loro come se qualcuno li avesse impauriti. Ha aggiunto che dopo quello che tu hai raccontato a Lil e il modo in cui si è comportato ieri sera il tuo amico, se non lo troviamo, telefonerà alla pattuglia a Nogales. Ma neanche loro possono attraversare il fiume. Dimentichi che hanno 2 aerei e un elicottero. Si alzò, annunciando: mi preparo una tazza di caffè. Ne vuoi? E speriamo che nel frattempo tu ti decida a dirmi chiaro e tondo cosa sta succedendo.